questa. Non sto coi piedi nel cielo. Ehi, tu mi chiedi se è vero, uccido la traccia. Eddie Guerrero, senza la fama, nato a Roma e noi in Alabama. Carnagione, bianca chiara, fumo arancione, Dalai Lama. Mi svengo veramente, con un tarlo nella mente. Fotte un cazzo della gente, il mio spazio è permanente. Frate dal 2007, che li ammazzo lentamente. Giocano a fare gli esperti, ma da me non prendono un cazzo certamente. È il vero quello che espongo qua. Qualche stronzo fra non potrà mai seppellirmi sul Golgota. Tra ripo fiumi di porpora, fanculo. Il malessere che si incorpora, che capisci come sono fatto, non ci conto ma. Mi chiedono come mi chiamo, se salverò il rap italiano. Io solo ho scritto qualche canzone. Chiedimi cosa faccio, chiedimi come. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo perché lo faccio bene. Perché lo faccio bene. Perché lo faccio bene. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo perché lo faccio bene. Perché lo faccio bene. Perché lo faccio bene. Macchina da guerra con la bottiglia gran riserva. Non ho mai fatto la riserva. Il tuo che pensi che mi serva? Capocannoniere, da quando giocavo sui campi d'erba. Vuoi darmi un voto? Dai, dammi 30 grammi, pacchi d'erba. Sono edificante, anche se so che me ne dici tante. Per la notte, per ridigitarle, caro per me sei insignificante. Sogno la morte di ogni vigilante, vengo la sorte come un militante. Mi hanno tolto tutto a causa di certe cose. Io le ho appena rifatte, frate. Ma è il vero quello che espongo qua. L'urlo più forte del mondo fra. Tra la gente che mormora, tra ripo fiumi di porpora. Di porpora. Ho questo dubbio che mi folgorà. Capirai cosa avevo in testa fino a un secondo fa. Mi chiedono come mi chiamo, se salverò il rap italiano. Io solo ho scritto qualche canzone. Chiedimi cosa faccio, chiedimi come. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo perché lo faccio bene. Perché lo faccio bene. Perché lo faccio bene. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo e lo faccio bene. Faccio solo questo perché lo faccio bene.